Non sento Stefano. Io lo sento un po' da lontano. No, sento soltanto te e basta. È soltanto me in studio, intendi? Sì, soltanto te in studio. Ho capito. Io lo sento. Adesso? Provate a parlare fra voi, vediamo se funziona questo esperimento, tutto in diretta. Sergio, tu mi senti? In diretta, non so, io continuo a sentire soltanto lo studio, ma non sento Stefano. Ah, ok. No, io lo sento bene adesso. Proviamo così? Così al contrario? Vai. Sergio, mi senti? Ecco, adesso ti sento. Oh, perfetto. Un bel siparietto comunque, non male. Adesso non lo sentivo più. Sì. Allora, buonasera a tutti. Qui si chiama Radio Onda Rossa e come voi saprete, e dico anche agli ascoltatori, il 9 dicembre in quel del Forte Prenestino ci sarà un'iniziativa a sostegno appunto di questa emittente di Radio Onda Rossa che vedrà partecipi i franti MM, Ombra e Roselux. I Roselux l'abbiamo avuti la scorsa settimana ospiti qui in radio e questa sera abbiamo l'onore dunque di avere come ospiti gli altri due protagonisti. Quindi innanzitutto buonasera e vi ringrazio della disponibilità, ecco. Grazie a voi, ciao. Grazie, sì. Allora, senti, sono arrivato anch'io. Aspetta un attimo. Sì. Non ti sento a te però. Ah, no, perché Io ci sono. Sì, io sento tutto. Non so se mi sentite. Sì, appunto, dicevo, mi potete rispondere tutti e due chiaramente. I franti nascono in quella Torino degli anni Ottanta, no? La Torino che aveva il cosiddetto effimero benessere economico, no? Per cui c'era la situazione della Fiat, con tutte le contraddizioni del caso, nel senso che poi la Fiat era una realtà operaia che già mostrava i segni della decadenza, i primi licenziamenti. Insomma, i franti nascono in un contesto operaio e sociale molto vasto. E come nascono esattamente i franti? Facciamo una piccola storia, un piccolo riepilogo delle puntate precedenti per chi magari non le sa, solo per questo, e poi arriveremo rapidamente ai giorni nostri, parleremo dei franti, delle esperienze Blue Bus, eccetera. Sì. I franti nascono in una classe di un liceo scientifico di Torino, fra tre ragazzini che si mettono in testa di mescolare un po' le musiche che gli piacevano allora, dal jazz a Frank Zappa ai cantautori italiani, e con pochissima destrezza musicale, e poi ci siamo mescolati questo nel 1980. Mm-hmm. E quindi a cavallo prendi. A cavallo. Sì, 1980, anche sì, sostanzialmente io sono uscito dal liceo, lavoravo alla Fiat appunto nel 79-80 come operaio, qualcuno è andato all'università, abbiamo incrociato altri due, tre, quattro, perché in realtà era un gruppo abbastanza nutrito di persone che poi si è stabilizzato attorno a 5 persone, che erano un po' più vecchi di noi, che frequentavamo lo stesso gruppo politico, la stessa area politica di allora, diciamo della sinistra radicale o come diavolo si chiamava. E forse extraparlamentare allora non è più di moda. Extraparlamentare. Qualche anno dopo c'è stato un incontro con il movimento punk, i collettivi punk, quindi anche punks anarchici eccetera, anche della nostra città, che è stata una realtà molto, molto grossa. Siamo andati avanti fino all'87, nel frattempo, quasi praticamente all'inizio anche un po' della nostra storia, abbiamo fatto partire insieme a Ichina l'etichetta Blue Bus, che è andata avanti per tantissimi anni. I franti sono dall'87-88, diciamo, sono anche un po' usciti dalla gestione diretta dell'etichetta. Io poi ho suonato con i Kina dal 90 al 93 e ci sono state un paio di iniziative a nome Franti negli anni 2000 in concomitanza con un CD dal vivo, in parte dal vivo, in parte altri materiali mai usciti in digitale, e poi è uscito questo libro DVD due anni fa. Io ho deciso di rientrare in Italia dopo 20 anni in Inghilterra. No, ho detto solo quindi non so se era esatto oppure qualcun altro. Non sapevo che stavi a Londra, effettivamente. Non a Londra. A Londra sono stato solo il primo anno, poi ho fatto famiglia in Galles. Poi sono andato negli ultimi 3 anni, vivevo vicino a Bristol. Ma adesso sono rientrato qui e vado a vivere in Sardegna. Adesso sono a Torino, però. È uscito questo libro per la Nautilus di Torino, che si chiama Perché era lì. Una specie di controstoria, ma anche molto di più, devo dire, dei Franti e delle cose che ci avevano ispirato e interessato allora, fatto insieme a dei blogger dell'area di Pisa. Perché controstoria dei Franti? No, in effetti non controstoria è una cazzata. No, vabbè, l'hai detto te. No, ormai ripetilo. Cancelliamo tutto. No, infatti cancello quello. Sì, chiaramente c'è anche una sorta di cronologia, però in realtà è una... È un libro basato che prende a prestito il titolo del terzo LP, Il giardino delle 15 pietre, e quindi è scritto a tante mani, tante teste, quindi viaggia attorno al percorso dei Franti, più come dal punto di vista letterario, politico, filosofico, storico, se vuoi musicale, più che non è un libro sulla band, ecco, non è uno di quei libri autobiografici tout court. Non è un libro autobiografico, qualcuno infatti si è lamentato di questo, però pazienza, è un libro frantiano, non è un libro sui Franti, quindi è caotico. Allora, dal momento che Stefano, dal momento che hai vissuto 20 anni in Inghilterra, devi ripetere tutto in inglese adesso. Devo ripetere tutto in inglese, sì. No, scherziamo, ovviamente. Certo, domanda. No, aspetta, il problema è che poi non lo capiamo noi, quindi. Senti, io te lo chiedo una cosa, dato che voi siete nati in questo periodo particolarissimo di transizione culturale e musicale tra gli anni 70 e gli anni 80, no? E da un lato c'era l'esperienza che è stata nominata in una recente tua intervista del passato, che era la Cramps, che poteva essere un felice approdo per quanto riguarda l'esperienza Franti, che per certi aspetti non c'entrava nulla con la scena hardcore punk di allora, ma per esempio la Cramps oppure le cose che ruotavano intorno agli Stormy Six poteva essere una cosa interessante per voi. Invece non è andata così, forse perché la Cramps era troppo intermedia come realtà? Cioè non era indipendente, ma... Sia la Cramps che l'orchestra, cioè l'etichetta dei Stormy Six a Milano, arrivano prima, appartengono a un altro periodo, appartengono qualche anno prima, a un mondo di indipendenza, di unione fra atteggiamento politico e atteggiamento musicale, però appartiene a un pre-punk. Noi c'entravamo musicalmente, forse, non lo so, non mi piace tantissimo parlare di musica dal punto di vista estetico, perché non so mai che cosa dire, dal punto di vista invece del modo di stare dentro le cose. Invece il punk è stato per noi il detonatore di quel poco tanto esplosivo che potevamo avere. Senza il punk non ci sarebbero stati Franti, per questo che noi siamo poi stati cresciuti dentro quel movimento in maniera un po' particolare, perché avevamo qualche anno in più, facevamo una musica anche laterale rispetto, certo, a quello che si chiamava l'hardcore o il punk in senso classico, ma la Cramps e l'orchestra, stiamo parlando di generazioni precedenti alla nostra, prima di tutto di professionisti musicali bravissimi, che avevano pensato di poter aprire degli spazi anche manageriali per indipendenti, però noi eravamo troppo giovani, cioè, per carità, poi certo compravo i dischi degli Area, compravo i dischi di Stormy Six, però avevo 16-18 anni e non avrei mai pensato che avrei poi potuto anch'io fare dei dischi. Questo è prima che una certa idea del fatto di fare musica cambiasse radicalmente, ma lì ci sono, esatto, sono passati quei 3 o 4 anni e la Cramps ha chiuso. Sì, esatto, da lì a poco. Certo. Anche, credo. No, ma infatti la mia domanda nasceva dal fatto delle vostre influenze musicali, che erano un po' diverse dal punk. Nel punk c'era in comune l'attitudine esistenziale, fondamentalmente, questo era molto bello. Voi il fatto dell'uso di un approccio quasi jazz in certe vostre composizioni, di blues, ecco perché magari, visti in quel contesto, potevate stare bene. Ma la cosa bella è che effettivamente dopo 3-4 anni poi è esploso tutto, no? Sono esplose le fanzine, le radio, tutte le realtà che vi ha trovati protagonisti in un certo senso. Sì, ti ricordo l'ultimo album degli Area, sì. Dentro c'è il contributo di un paio di gruppi punk di Bologna, o quello che si chiamava anche un po' rock demenziale allora, come dire, prolungamento del 77, però nel 77 tutti quanti i musicisti dei Franti erano impegnati in altre cose, e quindi non passavamo tanto tempo con le chitarre, quindi non c'è stato proprio un taglio generazionale molto molto preciso con la morte di Demetrio, con anche l'orchestra, cioè poi anche uno dei dischi fondamentali per i Franti è Al Volo, l'ultimo album degli Stormy Six, che è un disco che forse ha venduto molto poco, però ecco, se lo si ascolta oggi, lì dentro ci sono veramente la visione della metropoli, della comunicazione dilagante, della propaganda. È un disco fondamentale per me, in assoluto, della storia musicale italiana. Comunque poi i rapporti con la Shia Punk furono interessanti, perché già il vostro primo lavoro, stiamo parlando della collaborazione con i Contrazione, nasce per l'appunto con questa unione di intenti, musicalmente diverso, ma come attitudine veramente storica, devo dire, no? Sì, il Contrazione, ma anche tutti gli altri gruppi di Torino, pur con delle difficoltà anche, certo, di età e anche magari di percezione anche di politica del fare, però siamo entrati in quel mondo. Abbiamo incontrato praticamente subito i Kina, che erano anche il nostro gruppo preferito, detto proprio papale, perché erano quelli che ci piacevano di più, forse anche perché erano quelli che mettevano un po' più di attenzione proprio al lato anche compositivo, e quindi abbiamo iniziato a girare con loro, con i Contrazione. Abbiamo iniziato a ragionare sul fatto di fare un'etichetta, e di lì poi siamo andati avanti. Sergio, ci sei? Sì. Sergio. Ci sono. Adesso che pubblicità che ti ha fatto? Il vostro gruppo preferito erano i Franti, Sergio? Dico, il vostro gruppo preferito erano i Franti all'epoca? Il nostro gruppo non punk preferito erano i Franti. Una coincidenza, io non lo sento, il problema è che non lo sento. Vabbè, perfetto. Sergio ha detto che eravate il loro gruppo preferito non punk. Non punk, okay. Beh, certo. Musicalmente, quindi ti riconosci più o meno nella storia che ha tracciato Stefano, visto che poi i vostri percorsi si sono più volte incrociati? Sì, diciamo che le origini sono abbastanza diverse, no, noi anche per una questione anagrafica siamo di qualche annetto e più giovani, e questo soprattutto all'epoca era una grossa differenza, no? Si vivevano cose diverse, la scuola, quello che succedeva nella scuola e quello che succedeva fuori. In più Aosta è sempre stata una realtà decisamente non proletaria, certo. Una città turistica, era una città dove comunque esisteva un'economia che era sostenuta da una grossa industria, grossa per la realtà valdostana, un'industria siderurgica, la Cogne, produceva acciai speciali e vi lavoravano circa 9.000-10.000 operai. Insomma, noi ci avviciniamo al punk diciamo attivamente, perché prima sì, il punk penso che un po' per tutti sia stata una questione di fruire di musica proposta dal basso, dal radio, no? Sì. le radio libere, ma paradossalmente molto punk è stato portato anche dal Rai, trasmissione alla televisione, oppure anche mi ricordo c'erano delle trasmissioni alla sera, c'era Supersonic, certo, alla radio intendi, eh? Alla radio, sì, sì, la sentivo anch'io, Popoff, ti ricordi Popoff? Esatto, Popoff. E lì veniva trasmessa la musica punk, sì. Poi noi tutti quanti un po' giovinastri nel periodo fine scuola, inizio nuova vita dopo la scuola, c'era un po' questo mito delle radio libere, quindi un po' tutti quanti basticavamo una radio che si chiamava Radio Host International, ed è lì che ci siamo conosciuti con Giampiero, io e Giampiero, quindi si è passati prima dall'essere semplicemente degli ascoltatori di musica punk all'essere delle persone che volevano iniziare a fare qualche cosa di più concreto, no? Di un pochettino più fisico anche. Certo. Diciamo l'occasione è stata quando Giampiero ha iniziato a studiare a Torino e ha preso contatti con il collettivo dei punk anarchici di Torino e niente, da lì poi noi siamo diventati, contemporaneamente c'è stata questa formazione dei Kina e questo avvicinamento a Torino, per cui l'avvicinamento anche ai Franti è stata abbastanza una cosa naturale. Tra l'altro mi ricordo la prima volta che ho visto i Franti, ed era a Vanchiglia, Giampiero era abbastanza entusiasta del fatto che era venuto ad Ostia e ci ha detto: al prossimo concerto suona anche un gruppo di free jazz. Al concerto di Vanchiglia. Allora, non so, però sento tutto quello che dici. Adesso sì, non so se sente Sergio, però. No, io lo sento adesso sento tutti. Ah, bene. Non ho capito chi è che non sente, io sento tutto. Ah, perfetto. Allora non sentiamo noi, facciamo. Allora andate avanti noi, ce ne andiamo noi, intanto andate bene, benissimo. Beh, quindi era il free jazz come una minaccia, era un martello, era una minaccia questo gruppo free jazz che doveva venire da lì a poco. Ma guarda, in realtà poi dal vivo loro erano anche molto rock, a me piacevano molto perché facevano anche dei pezzi rock and roll, delle cose, dei pezzi anche melodici, dei lenti. Ballo della mattonella, anche questo rispetto agli standard del punk e del free jazz. Certo. No, per cui rispetto a quella che era la scena hardcore, dove valeva soltanto una regola: suonare più velocemente possibile e più distorti possibile. Certo. Probabilmente i Franti avevano qualcosa di diverso, che eravamo la stessa, di cui noi eravamo il reciproco per loro, ecco, no? i loro pezzi si ascoltavano, si cantavano, evocavano, che ne so, delle immagini anche abbastanza forti, erano anche struggenti nei loro testi, e insomma erano molto affascinanti. Poi anche come persone loro, che ne so, per esempio Vanni, sempre con questo barbone, chitarrista Vanni Picciuolo, ricordiamo, esatto, Vanni Picciuolo, Picciuolo. Sì, sì. Poi il fatto che ci fosse Lalli a cantare, anche lei è una persona molto, molto, come dire, catturava molto l'attenzione per il suo modo di stare sul palco, il modo di si vedeva proprio che lei quello che cantava lo stava vivendo in quel momento lì. Sì, sì, sì. E, insomma, era tra le voci più espressive che ho mai sentito, devo dire, Lalli, eh. Una voce molto espressiva, vero, vero. Non bellissima da un punto di vista puramente, però come un po' Battiato, per spiegatemi il termine un po' strano. Battiato non c'è una bella voce, però è espressivo, al di là che possa piacere o meno Battiato, ho fatto un esempio così, insomma. Ma Lalli è la stessa cosa, una voce molto molto espressiva, devo dire. Sì, sì, è molto particolare. Poi appunto, sai, noi nel punk siamo sempre stati così propensi più a guardare la a dare peso alla sensazione che ti dà qualche cosa piuttosto che al risultato tecnico, e quindi non so, Lalli era una persona che, come si dice, ci stava dentro, no? E catturava proprio, sì. E sentire poi i Franti, appunto, a un certo punto, ovviamente potete rispondere tutti e due, sapete tutto di voi praticamente, insomma. I Franti terminano nel 1987, credo anche per problemi personali, insomma, no? Da quanto ho potuto arguire, o sbaglio, insomma. Sì, sì. Si era esaurito un ciclo, diciamo, ecco. Noi siamo andati a... La domanda è rivolta a chi? A me o a Stefano? A tutte e due. Uno per volta. Uno per volta. Avete una versione diversa? Ma no, in realtà, se posso continuare io... Sì, prego, cioè, penso che non si arrabbia Stefano, penso. L'87 è un anno di transizione, è un anno che segna un cambiamento fortissimo in generale anche nella scena punk hardcore. È l'anno in cui tantissimi gruppi si sciolgono, tantissimi gruppi storici. È l'anno in cui la scena un po' esplode nel senso negativo del termine. Infatti noi rimaniamo forse uno dei pochi gruppi della prima ondata a continuare a suonare, e tra l'altro anche per questo motivo alcune frange ci criticheranno, proprio perché noi abbiamo, come se ne avessimo voluto a tutti i costi, continuare a esistere come gruppo e perpetrare, che ne so, questa leggenda del punk. Mentre invece il punk doveva morire, doveva bruciare tutto, certo. e morire, no? Cosa che noi invece non abbiamo mai accettato, in quanto per noi l'idea di continuare a suonare, o di comunque di suonare, era legata a una cosa positiva, cioè noi facevamo qualche cosa per stare bene perché comunque aveva un valore in sé. Quindi col continuare a frequentare i posti, continuare a mantenere viva la scena, quello che restava della scena, continuare a tenere un po' anche i collegamenti tra le persone, e poi anche proprio una questione di sopravvivenza nostra. Noi da qua, se non avessimo avuto questo impegno costante di tutti i fine settimana a prendere, salire sul nostro furgone, fare centinaia e centinaia di chilometri, probabilmente non avremmo avuto delle grosse ragioni per continuare anche a vivere. Anche perché Aosta non è Torino, insomma. Aosta non è Torino, e ogni volta che ti sposti da Aosta devi fare almeno 100 km per arrivare, cioè 100 km in un'unica direzione, perché l'autostrada è una sola che parte o che arriva da Aosta e va a finire a Torino. Poco prima di Torino c'è un bivio che ti porta a Milano, allora devi farti altri 100 km per arrivare a Milano. Certo. Per arrivare a Genova devi fartene quasi 300, e insomma, voglio dire, da Aosta è tutto lontano. E per quello spesso e volentieri me ne andavate in Germania, insomma. Sì, ma guarda che per esempio Berna è a 200 km netti da Aosta, Milano è a poco più di 180. Noi per andare a Friburgo in Germania facevamo 360 km, era più vicino che Bologna. Che ne so, Francoforte, sono 630 km. Una domanda, scusate. Più vicino di Roma, hai capito? Ah, beh, certo. Ma voi la conoscevate la Rotte Fabrik a Zurigo? Sì, ci abbiamo anche suonato. Ah, ecco, beh, che lì è una realtà. Io sono stato 20 anni fa lì, anzi, quasi, sì, 25 anni fa lì. Io sono rimasto molto scioccato, la cameriera che faceva la ricevuta fiscale al ristorante, insomma. Quindi, noi abituati a Forte Prenestino con Svizzera, certo. La Svizzera è sempre stato un posto un po' strano da quel punto di vista. Noi diciamo sempre sono svizzeri e boh, insomma, se li abbiamo come vicini a pochi chilometri da casa, certo, certo. E onestamente sono l'oggetto principale delle nostre prese per il culo degli stranieri, ecco, insomma, diciamo. E quindi atto per tornare al famoso fatto dello spirito, la frase che accendono un fuoco e andare via, no? Incarna un po' entrambi i progetti in un certo senso, perché lo spirito Franti è, diciamo, è sopravvissuto sotto altri progetti e altre realtà. Insomma, parlateci anche del post Franti a questo punto, di entrambi, sia Ombra, Franti MM. Cosa vuol dire Franti MM e altre cose che l'hai fatto con Lalli, per esempio? Nel post Franti ci stanno anche Iena in qualche maniera, almeno per quanto riguarda Stefano, insomma. Ah, certo. L'etichetta è andata là, sì. Nell'87 il gruppo si ferma in quanto Franti, però noi continuiamo a suonare e per esempio uno dei gruppi che facciamo si chiama Orsi Lucille, e che sono quattro quinti dei Franti, più delle persone, dei musicisti che suonavano, dei compagni, degli amici che suonavano con noi proprio all'inizio, quindi 7-8 anni prima. In realtà è sempre stato un grosso giro di persone che un collettivo aperto. Un collettivo aperto, senz'altro. Poi sì, ci sono state, diciamo, quattro persone, io e Massimo, che eravamo nella stessa classe, il bassista, che eravamo nella stessa classe di quel liceo, Lalli e Vanni, che hanno, diciamo, poi continuato a lavorare insieme anche, ma in tantissime diverse configurazioni, però cioè, di lì a Franti MM passano quasi 30 anni, sì, 25 direi. Quindi siamo poi vabbè, nel 90 io ho fatto qualcosa, continuavo a seguire anche un po' l'etichetta, ho fatto qualche ospitata con Ichina, e nel 90 sono andato a fare un tour con loro insieme anche a un altro rappresentante del punk di Rovereto, e quindi del Trentino, e al ritorno loro hanno deciso, insomma, per un po' di tempo di non suonare più insieme con Alberto, e siamo entrati dentro. Poi loro hanno, insomma, c'è stato un po' di è entrato un altro chitarrista, e poi sono entrato anch'io, siamo andati avanti per tre anni, poco di più, però ecco, di lì poi dopo è iniziato un lungo periodo anche di grosse trasformazioni, e io poi nel 98 sono andato via. Certo. Sono andato a vivere in Inghilterra, e in questi anni ci siamo visti credo 3 o 4 volte, poi con Sergio Giampi anche, qualche volta ho anche suonato in Val d'Aosta, e chiaramente tutte le volte che potevamo abbiamo sempre suonato insieme, collaborato, perché comunque c'è da dire, al di là dell'amicizia, del lavoro nella Blue Bus e dei tanti concerti fatti insieme, i Ichina sono stati effettivamente, Ichina e anche Michele, cioè la Blue Bus in quanto tale è stato uno dei autentici motori di tutta la scena punk, di tutta la storia punk. Parliamo di 20 anni, cioè senza problemi. Era in un certo senso, ovviamente, quando pensi al punk pensi alle grandi città, alle metropoli, mentre una cosa che ho sempre ripetuto, il vero punk italiano viene dalle città di provincia, addirittura da una città praticamente quasi al confine con la Svizzera, e quindi era completamente fuori, no, molto decentrata. Però senza la Blue Bus, senza Ichina, credo che non, anche proprio a livello europeo direi che non cioè, il punk avrebbe andato a un cilindro solo. Certo. E quindi veniamo ai giorni nostri a questo punto. A parte voi a Roma avete mai suonato? Scusate, c'è un attimo di amnesia. Quando avete suonato a Roma come Franti? È successo? Sergio di sicuro la sa più lunga di me. Marpione. Dicci Sergio, sei stato chiamato in causa. Ma non ho sentito perché non riesco più a sentire Stefano. Ah, ok. Stefano diceva. Allora, aspetta un attimo, ve lo ripete lui. No, che ci chiedevano. Se avevamo suonato a Roma e io ho detto Sergio di sicuro ne sa più di me. Ma aspetta, allora, ma perché ridacchi? Io? Sì, proprio riderli. Perché ero sicuro che saltavano fuori delle questioni di date e di cose. Tant'è vero che mi sono acceso il computer, ho segnato tutti i concerti che abbiamo fatto. E posso dire che con Stefano, come China a Roma, non abbiamo suonato nel 90, però potremmo aver suonato nel 91 al Villaggio Globale. Sì. Abbiamo suonato al Forte Prenestino sempre nel 91 ad aprile. Ah, sì. Poi abbiamo suonato al cinema, al Brancaleone. Sempre nel 91 a luglio, certo. E poi ancora al Forte Prenestino a ottobre. E poi abbiamo fatto male a invitarvi. Sono troppe volte. Sono passati tanti anni. No, poi non vengono i China, attenzione, vengono esatto. Anche infatti del progetto nuovo di Sergio. Esatto. Sì, appunto, veniamo ai giorni nostri. Appunto, cominciamo con Ombra. Dici un po' la dinamica Ombra. La dinamica Ombra è una cosa un po' strana, nel senso che noi veniamo appunto, come diceva Stefano, da una città, da una realtà che di metropolitano ha ben poco, e siamo figli un po' di quello che è il nostro ambiente. Ostia è una piccola cittadina che fa 40.000 abitanti in mezzo alle montagne, e le cose con cui noi abbiamo a che fare sono le feste patronali, sono le ricorrenze, la banda musicale, tanto è vero che io ho imparato a suonare la batteria con la banda, e, insomma, i cori e queste cose. Quando negli anni 80 sono esplosi i Pogues, gruppo di Schaumann, sì. Esatto. Uh-huh. Per me è stata una rivelazione, una cosa incredibile, perché certo. Riusciva a mischiare in maniera geniale il punk e anche quello che era la musica popolare, che in qualche maniera mi ricordava quello che vivevamo noi qua, e quindi questo amore per questo stile mi è sempre rimasto. Tra l'altro, passando gli anni anche con i China e poi con i Frontiera, certo. Questa vena, il nostro modo di suonare è sempre stato molto associato a certi aspetti del cantautorato e anche della musica popolare, forse era vero. Fatto sta che quando poi con i Frontiera abbiamo detto basta, per me è stato abbastanza naturale trovare delle altre persone con cui suonare e provare a fare qualcosa di diverso, per esempio mischiare tutta quella che è stata l'esperienza di quei 30 anni di ambiente punk con quello che è stato anche tutto l'ambiente che ci ha sempre circondato quando noi eravamo in giro a suonare, per cui la musica popolare, la musica folk, le fisarmoniche, i violini e tutto questo. Ho scoperto che esiste un universo incredibilmente fertile di band che hanno probabilmente avuto lo stesso percorso, forse in Italia un po' di meno, ma all'estero sono tantissime. È stata una sorpresa abbastanza piacevole per quanto mi riguarda. Poi in questo clima, che questa voglia di cambiare un pochettino il registro, ho anche abbandonato la batteria, mi sono dedicato a un altro strumento, al banjo. Non sono capace, anzi non ero tanto capace di suonare la batteria. Ma però, i punk non devono saper suonare. Esatto. Non è almeno la prima cosa richiesta. Cioè, solo l'attitudine punk se ne va a fottere. Se lo sanno fare, tanto meglio. E poi qualcuno mi dice che in realtà era la sindrome del batterista, che per tanti anni è rimasto dietro, non vedeva mai cosa succedeva sì. Davanti al palco. Frustrazione. Allora, ho voluto cambiare posizione. Però anche con gli Umbra qualche volta ritorni là dietro? È capitato di tornare dietro qualche volta, però insomma no, mi piacciono entrambi i ruoli, mi piacciono, ecco. E al Forte Prestino quindi sarete tu, come sarà la formazione quindi al Forte? La formazione degli Umbra al Forte Prestino attualmente sarà, sì. Come Kina, come Umbra, certo. Sì, come ex Kina voglio dire. Ah sì, scusa. Soltanto io. Poi ci sarà chitarra acustica, una chitarra elettrica, ci sarà una fisarmonica, ci sarà un basso, ci sarà una batteria. Ma ci sono anche dei nomi? André Aghetta alla chitarra acustica, uh-huh. Christian Rossi alla chitarra elettrica, Matteo Cosentino alla batteria, Andrea Robin Preyan alla fisarmonica. Formazione vasta, sì. bello. Sì, siamo in sei. Bellissimo, sì. Piccola grande orchestra. Diciamo che in sei si fa più rumore, certo, più facilmente nelle imperfezioni. Non è vero, insomma, almeno da quello che ho visto in rete, non c'è molto degli Umbra in realtà in rete. C'è poco, eh. C'è più un'attività live, a quanto mi è dato di capire. Da dire, sì, vero. Sì, effettivamente siamo stati un po' avari nel registrare cose, però ci siamo riproposti a partire dal 2018 di... Si dice sempre così, eh? Di recuperare il tempo perso. Vi piace tanto suonare dal vivo, che poi è una cosa bellissima, insomma, certo. Peraltro. Sì, ma poi anche mi sono accorto che incredibilmente questo, il modo in cui suoniamo, oppure forse il fatto di mischiare in maniera anche divertente tante cose diverse, piace. E allora ogni volta, anche non importa il pubblico, che pubblico ci ritroviamo davanti, però sono sempre tutti contenti, tutti che si divertono, salta, tutti che fanno i complimenti, anche quando in realtà magari non abbiamo suonato tanto bene, però è proprio si crea una bella atmosfera da festa. Noi siamo dei montanari, abbiamo più scarponi che scarpe da ginnastica, per dire, certo. I nostri armadi, e allora insomma siamo un po' dei grezzi, ecco. E invece Franti MM, che vuol dire MM, com'è attualmente il progetto, diciamo, di Stefano Giaccone e compagni? Sì, l'abbiamo appunto, dopo la pubblicazione del libro e DVD, c'è stato di nuovo un po' un certo interesse rispetto a quei brani, a quel periodo. In questi anni tutti i nostri, è uscito il triplo CD non classificato, è continuato, è sempre stato ristampato, magari un po' difficile da trovare, ma è sempre stato insomma in circolazione nel circuito indipendente, attraverso Stella Nera, che è che è l'iniziativa legata alla rivista Anarchica. Mm-hmm. E poi due anni fa ci hanno, nel frattempo io sia con Gianluca che con Giovanna avevo fatto varie cose, Gianluca Della Torca, che è il bassista del gruppo che si chiama Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Ah, sì, sì. Che è uscito proprio, credo che sia uscito il film su Nico, e loro hanno fatto la colonna sonora. La regista è De Roma, che non so se è arrivato a Roma, ma penso di sì, il film che si chiama Nico 82, non so. Siete ancora lì? Sì, ci siamo, no, sto pensando se è arrivato a Roma. Non è ancora arrivato. Credo non sia arrivato, no. Si chiama Nicchiarelli, penso, no? Ed è una regista di Roma che ha fatto due o tre film, e le colonne sonore, cioè loro, i Gatto Ciliegia sono un gruppo strumentale, quindi ci hanno fatto parecchie colonne sonore. Cioè, Gianluca aveva suonato nel 2013, mi pare, quando c'è stato l'unica volta che effettivamente i Franti si sono riformati per mezz'ora a un festival che c'è stato allo spazio 211 a Torino, e c'eravamo io, Lalli, Gianluca, appunto, Marco Ciari, il batterista originario, e Mario Congiu la chitarra. Ma con Gianluca abbiamo fatto tantissime cose, anche l'ultimo disco mio, Aria di Festa, è uscito 3 anni fa. È stato come Stefano Giaccone, l'hai fatto questo? Sì, sì, Stefano Giaccone, sì, sì, è stato arrangiato da lui. E Giovanna invece è una storia differente. Giovanna viene dalla musica anche da, diciamo, non so se non è un termine offensivo, semplicemente per capirsi, di musica più commerciale. E questo quando un po' di anni fa, e poi ci siamo incrociati attraverso un bellissimo festival che veniva fatto a Torino, che è stato fatto per un po' di anni, che si chiamava 60-70, e abbiamo incominciato a collaborare insieme, abbiamo partecipato a qualche festival, abbiamo messo su un progetto che purtroppo abbiamo dovuto interrompere perché io sono ritornato a vivere in Inghilterra. C'era stato un periodo di alcuni anni in cui andavo su e giù come un matto dopo il divorzio, insomma, che si chiamava Vincenzina Franti, ed era una sorta di piccola storia, diciamo, dell'Italia contemporanea attraverso le canzoni, perché lei canta spesso, collabora con gruppi teatrali, spettacoli sulle problematiche femminili, sulla resistenza, e quindi ha quello è un po' il suo mondo. Avevamo messo insieme questa la mia storia, che anche a me interessa, insomma, questo aspetto della storia della musica italiana, i cantacronache, quindi, ma anche Pasolini, eccetera eccetera, e poi io sono tornato in Inghilterra, e poi dopo è uscito questo libro e abbiamo detto proviamoci. Quindi noi siamo in tre, e metà del concerto utilizziamo delle basi, non sono basi ritmiche, sono proprio delle parti mandate dal computer, tutte create però appositamente da Gianluca, che